Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti voi radioascoltatori, buongiorno Edoardo Lavezzari, Peter Bescapè che oggi è in regia e buongiorno a te Carlo, come va? Buongiorno Laura, va benissimo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica, buon 28 giugno. Buon 28 giugno, mi pare di aver letto che è il compleanno di Pirandello. Beh, insomma, adesso poi ci ritorno, adesso ve lo confermo. Se non sbaglio, di sicuro è il giorno in cui si indovina il personaggio della settimana. Lo si fa telefonando all'800 24 0024. Anche adesso noi tra poco diamo il primo indizio, ne daremo tre in tutto. E ovviamente, come sempre, chi vince, chi indovina, si porta a casa un libro o meglio, riceverà a casa un libro, no? Ricordiamo che il personaggio può essere, noi parliamo sempre di personaggio, ma il che non vuol dire che sia per forza un uomo, può essere un uomo, una donna, un avvenimento, la luna è stato anche, quindi sbizzarritevi e direi diamo subito il primo indizio. Il primo indizio è molto atteso. Quindi il personaggio della settimana che dovrete indovinare e comunicarci all'800 24 0024 è molto atteso. Che altro e che... poi ci sono, sì, gli sms, sì, ovviamente. Bravo. Giusto? Lo dico perché io leggo solo gli sms al 349 238 6666, leggo solo gli sms non perché sono antipatico io ma perché non vedo i whatsapp, oppure potete mandare i whatsapp allo stesso numero 349 238 6666. E in quel caso li leggo io. Esatto, che è meglio. No, beh, cosa c'entra? Quale è meglio, quale è peggio? Li leggiamo insieme, vediamo un po' cosa vorrete condividere con noi in questa giornata. Invero molto calda, io sono venuta vestita troppo rispetto al solito. Qui di solito fa molto freddo in studio, devi sapere. Oggi invece chissà perché fa molto caldo. Condivido la scelta, ma se me l'avessero comunicata sarei venuta con uno strato in meno. Comunque questo è un problema mio. Vuoi dire che oggi non c'è l'aria condizionata? Ce n'è meno del solito, io non so perché. Ce n'è meno. Ce n'è meno del solito, vabbè. Io non vengo in sede da 3 mesi. Beh, ma ci verrai presto, staremo Verissimo. In studi divisi, però potrai finalmente rientrare qui in via Monterosa. Di cosa ti sei dilettato in queste ultime ore? Cosa hai letto? Cosa hai visto? Ho letto, a proposito di niente, l'autobiografia di Woody Allen, edita dalla Nave di Teseo, che in realtà più che un libro sembra la trascrizione fedele di un lunghissimo monologo. È come trovarsi con Woody Allen sul divano di casa che ti racconta tutta la sua vita per filo e per segno, partendo dall'inizio, il 1935, ricordo, e facendo digressioni su qualunque cosa, ma parlando comunque di ogni singolo film della sua lunghissima carriera. Peraltro non ancora conclusa, non ha un valore letterario il libro, ma per chi vuole conoscere o approfondire o per chi è già un fan del regista newyorkese è una lettura intrigante, torrenziale, spesso divertente, spessissimo logorroica, ma ben punteggiata dall'ironia inconfondibile di colui che per un periodo è certamente stato il più forte battutista americano, infatti scriveva per i migliori, prima poi di cominciare a scrivere per se stesso, migliorandosi di film in film. Ovviamente c'è anche la questione della battaglia legale con Mia Farrow per l'affidamento dei figli, le presunte accuse di molestie, è la versione di Woody come lui stesso sottolinea più volte, ma credo sia importante ricordare a tutti le evidenze certe, perché con la stampa e quello che abbiamo letto credo che ognuno di noi abbia le idee molto confuse. Son Yi è la figlia adottiva di Mia Farrow e non di Woody Allen. Mia Farrow e Allen non si sono mai sposati, Allen non ha mai adottato Son Yi, loro si sono innamorati quando lei aveva 22 anni e non da minorenne, e soprattutto Woody e Son Yi sono tutt'oggi felicemente sposati da più di 20 anni. Ma è il lavoro di autore e regista al centro dell'interesse del libro, e anche di Woody poi, che è un cosiddetto workaholic, che in maniera quasi patologica non smette mai di scrivere, girare e produrre film. E il bello è leggere, che ne so, che i fuochi d'artificio in Manhattan sono stati un colpo di fortuna, perché hanno saputo che qualche giorno dopo ci sarebbe sarebbe stata questa festa e si sono messi a riprenderla, oppure la personalità di Diane Keaton, di come nasce l'idea di girare in bianco e nero certi film. Insomma, devo dire che anche la forma di questo libro, una confessione senza freni e soprattutto senza pause per 400 pagine, dà la sensazione di un uomo che non ha bisogno di fingere, che ti racconta 80 anni di cinema e di vita visti da dietro coi suoi inconfondibili occhiali e con la sua riconoscibilissima voce. Ecco, voce, a proposito di niente, è stato un bellissimo ascolto più che una lettura. Un bellissimo ascolto. Senti, sai che sono subito arrivati copiosi messaggi anche su Pirandello, il 28, io trovo il 28, anche se c'è ascoltatori che dicono il 29, mi pare che sia una questione dibattuta, ma ne dibatteremo più avanti. C'è anche qualcuno che ha già scritto qualche, così, fatto qualche supposizione sul personaggio, ma non vale via WhatsApp, ve lo devo ricordare, no. 800 24 00 24. Vabbè, posso rispondere a chi mi ha scritto, sarà forse Godot. Ecco, chiaramente no, perché non ha fatto qualcosa nella settimana. E quindi però non... è buona. Questa è anche una battuta molto alta, in qualche modo. Beckett vicino a Pirandello mi sembra perfetto. Il 28 invece sicuramente è l'anniversario dei morti di Stonewall. Ieri dicevo il 27 perché effettivamente è la notte del 27, ma i morti iniziarono dopo mezzanotte, quindi è il 27-28 giugno i morti di Stonewall, da cui nasce il movimento di liberazione omosessuale, per cui ci sono tutti i Pride. Ieri c'è stato anche a Milano. Esattamente. Io invece, molto più banalmente, mi sono domandata ieri, adesso che ritorna un po' la stagione di stare, no, fuori al ristorante finalmente, eccetera eccetera, vorrei abbinare correttamente cibo e vino, oppure magari birra e cibo, perché quella è ancora più difficile, almeno per me. E allora ho trovato una bellissima app, un'app che si chiama Combivino. Alessio Papa Sergio ne è l'ideatore e quindi ci guida un po' negli abbinamenti tra cibo e bevande particolari, cioè anche questo upgrade, no, della birra. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. C'è stato anche, no, questa novità, questa introduzione della birra. L'app era già in circolazione per gli abbinamenti tra vino e cibo, ora è arrivata anche la birra. Io la trovo anche più difficile, quindi molto riconoscimento per quello che avete fatto. Sì, è stata anche una sorpresa, diciamo, comunque per noi che siamo esperti di vino, però diciamo sulla birra ancora c'è molto da scoprire, veramente si è aperto un mondo anche per noi. Ci siamo? Ci siete tutti? Sì, ah, ok. Sì, adesso forte e chiaro. Sì, ho avuto un attimo così, mi sembrava che fosse scomparsa la linea. Con che cibi, diciamo, che cibi si abbinano meglio alla birra, che è, no, molto estiva? Almeno io la leggo molto all'estate, anche se in realtà le birre sono le più diverse, quindi possono essere sicuramente anche invernali. Ma insomma, con l'estate, che cosa possiamo mettere a fianco alla birra? Beh, diciamo che la birra comunque copre una vastissima gamma di sapori, per cui diciamo rispetto al vino riesce comunque ad abbinarsi bene sia d'estate che d'inverno con moltissimi piatti. Quello che abbiamo scoperto, per esempio, anche in relazione ai dolci, noi abbiamo classificato 76 stili birrai e praticamente diciamo abbiamo scoperto che ci sono 15-20 stili birrai che si sposano mediamente con i dolci, mentre per quanto riguarda il vino abbiamo trovato anche un po' più di difficoltà, perché con il vino l'abbinamento più corretto chiaramente è quello in concordanza, quindi dolce-dolce. Ah, in concordanza, mentre con la birra no, si può un po' più giocare forse. Con la birra si può più giocare, si può andare in concordanza. Beh, anche con il vino in realtà, ci sono alcuni che magari sono più azzardati, ma che fanno degli abbinamenti, insomma non per forza solo il passito va bevuto con i dolci, giusto? Beh, diciamo che tecnicamente sarebbe corretto comunque il passito quante dolci o comunque di vini liquorosi. Per quanto riguarda i dolci, insomma... Però dopo un po' il passito stufa, possiamo dirlo? Beh, diciamo il passito viene comunque a fine pasto, quindi prima del dolce comunque c'è la possibilità di degustare altri. Certo. Senta, ma io le volevo chiedere questo fatto di essere passati anche alla birra, perché mentre per il vino lo capiamo molto e c'è moltissima attenzione, per la birra, diciamo, c'era un po' meno, adesso ci sono tutte queste birre artigianali, quindi effettivamente c'è anche attenzione su quello. Però tante volte al ristorante abbiamo sentito non c'ho voglia di stare a scegliere, dalla carta dei vini, beviamo una birra. Se invece adesso anche per la birra bisogna dire, lei ha sbagliato birra perché con il pesce non si beve la birra doppio malto, come funziona? Beh, diciamo magari con il pesce la birra a doppio malto non è quella più indicata, però sicuramente ci sono tante birre che Ecco, infatti possono fare sapevo in che sbagliavo. abbinamento. E, ovviamente, diciamo come per la carta dei vini, i ristoranti possono anche dotarsi di una carta delle birre e quindi proporre loro stessi delle birre che diciamo, possono andare in abbinamento appunto con i propri piatti. E, Ma non ovviamente la diventa nostra. sempre più complicato bersi un bicchiere? Beh, sì, sicuramente è più complicato e la nostra app, diciamo, dà comunque dei consigli, per cui va comunque a limitare quelle che sono poi le possibilità di Giusto. scelta. Esatto. Noi cerchiamo comunque di guidare l'utente verso il perfetto abbinamento. Ovviamente non esiste un perfetto abbinamento, ognuno ha il proprio gusto, però con l'app, diciamo, si possono comunque gli utenti possono essere guidati verso quello che può essere il miglior abbinamento per loro. Quindi diciamo comunque poi possono effettuare la scelta finale, l'ultimo miglio, appunto in base al loro gusto e alle loro preferenze. Benissimo, allora l'app si chiama Combivino, Alessio Papasergio ce ne ha parlato in questi minuti, la ringraziamo molto, buon proseguimento, adesso noi abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora vediamo chi è il primo concorrente per il nostro indovinello di giornata. È Lucio, ha chiamato da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Chi è secondo lei allora il personaggio della settimana che è molto atteso? Vasco Rossi. Perché? Perché ho visto la pubblicità del prossimo concerto che terrà online, insomma. Pubblicità del concerto. Ok, allora sentiamo un po'. Non è lui, Non è. mi sento di escludere i concerti. Dai, voglio essere buona oggi. Mi sento di escludere i concerti. Do una mano così ad ampio spettro a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie, Vogliono. Lucio. Grazie, buongiorno. Buona Grazie mille. giornata, grazie. È arrivato il disco verde agli affidamenti diretti al terzo settore per quello che riguarda i beni confiscati alle mafie. Allora ritroviamo con molto piacere Davide Pati, vicepresidente responsabile dei beni confiscati per l'associazione Libera. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, radioascoltatori. Perché vorremmo sapere un po' Buongiorno. come Buongiorno. funziona, soprattutto abbiamo letto che a metà di questo mese di giugno doveva arrivare il primo bando per affidare questi 3.000 immobili a realtà non profit. Io non l'ho visto il bando, è uscito poi? Non Non ancora, ancora. dovrebbe uscire nelle prossime settimane. Ok, quindi siamo già a qualche ritardo. Comunque, l'Agenzia per i beni confiscati ha varato queste linee guida e quindi questo è già un bel raggiungimento. Spieghiamo un po', no? Quanto era atteso. Sì, si tratta di una iniziativa che applica una recente modifica al codice antimafia del 2017 e e cioè la possibilità per l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati di assegnare con bando pubblico direttamente i beni immobili confiscati alle organizzazioni del terzo settore. È un'iniziativa importante, soprattutto... Sottolineiamo il direttamente, vero? Perché questo è un passaggio anche importante. Sì, direttamente, e quindi l'agenzia si rivolge direttamente alle associazioni, alle cooperative, alle realtà del volontariato, del terzo settore, per presentare progettualità di riutilizzo dei beni confiscati. È un segnale importante perché sollecita naturalmente il protagonismo degli enti del terzo settore e allo stesso tempo pone anche come premialità la possibilità del partenariato con gli enti locali e quindi è prevista una clausola di preferenza per quei comuni che aderiscono all'idea progettuale e manifestano la volontà di acquisire la proprietà del bene. E quindi è un fatto importante perché sollecita anche un partenariato pubblico-privato anche nella gestione dei beni confiscati. Quindi da una parte sveltisce, immagino, e dall'altra cerca di riunire, insomma, appunto, come diceva lei, pubblico-privato. È un doppio vantaggio, ecco. Sì, rappresenta un'opportunità in più, una spinta, una sollecitazione per progettualità che provengono dai diversi contesti territoriali, perché i beni immobili ormai sono presenti in tutta Italia, le inchieste della magistratura, delle forze di polizia producono tanti sequestri, confische dal nord al centro sud Italia, e quindi a conferma del fatto che le mafie ormai sono dappertutto, investono nell'economia e nella finanza in ogni parte del nostro paese. E quindi rappresentano davvero un'opportunità per lavorare nel sociale, soprattutto in questo periodo di post-pandemia, cosiddetto, in cui tante realtà hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di luoghi per svolgere in pieno la propria missione di politiche sociali. Perché lo collega in particolare a questo periodo di post-pandemia, diciamo? Perché in questo periodo cosiddetto di ripartenza, già nella fase del lockdown, tante realtà che gestiscono i beni confiscati hanno messo a disposizione i propri spazi per essere accanto ai più bisognosi, ai più fragili, a svolgere attività educative a distanza, a portare anche i viveri. Quelle hanno rappresentato queste realtà che gestiscono i beni, ma tante realtà del terzo settore, un punto di riferimento importante per i cittadini, per le persone in difficoltà. In questo periodo di ripartenza, sicuramente i beni confiscati possono rappresentare un'opportunità in più per una maggiore opportunità di coesione, anche di coinvolgimento della comunità. Certo, ma lei parlava giustamente di segnale importante. Io devo confessare che in tanti anni di Si può fare, questa notizia credo l'averla già data 6 o 7 volte, il fatto di segnali importanti. Io mi chiedo, quando è che verranno veramente assegnati, si inizierà ad assegnare qualcuno di questi 17.318 beni immobili e 3.000 aziende confiscate alle mafie che sono ancora da assegnare? Cioè, quando sarà la prima inaugurazione, di inaugurazioni ce n'è state ovviamente, ma di questa nuova ondata, di questo bando, quando è che veramente si assegneranno saltando gli enti locali, che come sappiamo è una cosa importante perché spesso l'ente locale è nella zona, diciamo, c'ha tutte le sue problematiche, che quindi saltarlo sembra un buon modo per saltare anche dei meccanismi mafiosi. Sicuramente l'esperienza di questi 25 anni di applicazione della legge sull'utilizzo dei beni confiscati, perché è una legge che risale al 96, l'esperienza ci insegna che tante realtà, tante positività sono stati, progetti positivi sono stati realizzati. Da un recente censimento della nostra rete associativa nazionale risultano più di 850 le realtà sociali che hanno avuto in assegnazione dai comuni, dagli enti locali. Ma io parlo di questi 17.000 beni immobili di cui parliamo da almeno il 2017. Sì, certo, sono quelli che ancora sono in gestione all'Agenzia Nazionale. Alcuni di questi non sono ancora in confisca definitiva e quindi possono avere un'opportunità di un'assegnazione anticipata che poi verrà resa definitiva una volta che l'iter giudiziario verrà completato. Per gli altri, in confisca definitiva, sicuramente è necessaria un'azione di programmazione di riutilizzo di questi beni con il coinvolgimento, ripeto, è importante sempre delle amministrazioni locali, comunali e direttamente la sollecitazione agli enti del terzo settore. Molto importante questo bando perché contribuisce anche a una maggiore trasparenza delle informazioni sui beni confiscati, nel senso che è importante che queste informazioni sulla presenza dei beni e l'opportunità anche di poterli utilizzare arrivino direttamente alle realtà del terzo settore. Senta, quindi, le volevo dire, visto che abbiamo ancora un solo minuto, però lei sottolineava in interviste che ho letto che c'è comunque un punto debole, che sono le poche risorse che ha a disposizione l'Agenzia per i beni confiscati, così? Beh, sicuramente si tratta di un progetto impegnativo per l'Agenzia. L'Agenzia ha appena compiuto 10 anni, ha un organico ancora non completo, c'è un bando per 70 professionalità che ci risulta ancora non essere stato pubblicato, e quindi è per rafforzare l'organico, le competenze professionali dell'Agenzia. Quindi la legge prevede un organico a 200 unità, ancora non si è arrivati, e quindi è importante che per consentire all'Agenzia di svolgere il proprio compito di raccordo con l'autorità giudiziaria e di programmazione di supporto alle amministrazioni locali e agli enti del terzo settore, che sia in grado in pieno di poter operare. Quindi per passare dalla carta, diciamo così, alla pratica. Davide Patti, grazie molte per questo collegamento, il vicepresidente e responsabile dei beni confiscati per Libera. Noi abbiamo GR24 e ci ritroviamo subito dopo, no Carlo? Certo che sì, a dopo. A dopo. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E siccome siamo sulle ricorrenze, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, ben ritrovato anche a te Carlo, dimenticavo di salutarvi, andavo avanti in un flusso continuo io. Ma ci si mancherebbe altro. Oh, ti hanno rapito gli alieni a quanto pare, dalla voce che sentiamo in questo momento, ma tanto di spazio e di vita nello spazio parliamo, perché oggi abbiamo iniziato con la ricorrenza della data di nascita di Luigi Pirandello. Andiamo avanti e guardiamo al 2 di luglio, che sarà la giornata mondiale degli UFO. Io non sapevo nemmeno che esistesse nella mia ignoranza, ma appena l'ho letto mi sono appassionata e quindi abbiamo chiamato Maurizio Verga, storico dell'ufologia, tra i fondatori del Centro Italiano Studi Ufologici. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Verga. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come va? Come prepariamo questa giornata mondiale? Soprattutto cosa si fa nella giornata mondiale degli UFO? Ma praticamente nulla, nel senso che è una delle tante ricorrenze che sono sul libro delle ricorrenze. Bravissima, e che servono per parlare di qualche argomento magari un po' più frivolo del solito. Tra l'altro quella del 2 luglio è una data che è stata tra virgolette inventata, nel senso che non si riferisce tanto al primo avvistamento che è venuto tanti anni fa, 73 anni fa, il 24 giugno del 47, vicino a Mount Rainier, a stato di Washington negli Stati Uniti, ma invece è relativo a quello che è uno dei cardini del mito degli UFO, la storiella secondo cui a Roswell tanti anni fa è precipitato uno di questi disturbanti e gli americani si sono subito impossessati. Però detto da lei che mi ha fondato il Centro Italiano Studi Ufologici, mi dice che è una storiella, che è allora di cosa parliamo? Ma che la cosa più importante e interessante è capire il perché ci sono tutte queste, come ho chiamato io in modo un po' provvido, storielle, nel senso che in realtà quello che noi abbiamo davanti sono due cose. Da una parte c'è una massa incontestabile di persone che raccontano di aver visto qualcosa di strano nel cielo, il che non significa che ci siano le astronavi che arrivano da Marte o da qualche altro punto dell'universo. La seconda cosa è che a partire proprio dal 47 si è venuto a creare un gigantesco mito moderno che ha pervaso qualsiasi campo della nostra attività e soprattutto è entrato prepotentemente nella cultura popolare e ce l'abbiamo ancora tra di noi. Il motivo di questa giornata è proprio questo, perché l'argomento così importante, che tra virgolette è importante chiaramente, che viene poi ricordato, anche perché muove comunque un certo volume di interesse e qualche piccolo interesse commerciale anche, tra l'altro. Certo, sicuramente c'è anche quello, però dai, non è così piccolo come tema e non è così, io penso che sia molto in realtà interessante e logico indagare se nello spazio ci sono altre forme di vita, al di là del fatto che li immaginiamo verdi o gialli o alti o bassi o umanoidi oppure no. Mi sembra una questione importante. Diciamo che però sono due questioni nettamente separate, cioè da una parte abbiamo le testimonianze legate agli UFO, chiamiamole genericamente così, dall'altra parte invece c'è la ricerca sulla possibilità di vita al di fuori del pianeta. Quest'ultima è probabile, sembrerebbe molto strano il contrario, però stiamo parlando di cose che spesso travalicano le nostre capacità di astrazione, nel senso di dire, nel momento in cui parliamo di universo è qualcosa che non riusciamo nemmeno a immaginare, per cui è molto probabile che ci siano forme di vita al di fuori della Terra. Questo però non ha nulla a che fare con gli UFO, nel senso di dire che le due cose si sono saldate verso la fine degli anni 40 per tutta una serie di motivi che non sto a raccontare e che hanno messo insieme da una parte i racconti di gente che diceva di vedere delle cose strane nel cielo e che all'epoca per molti erano semplicemente delle armi segrete americane oppure dei cattivi del momento, cioè i russi. Qualcuno cominciava già a pensare che potessero venire da fuori dalla Terra per un motivo semplicissimo, perché nei 70 anni precedenti, a partire dalle affermazioni di un astronomo italiano, che era Virginio Schiaparelli, quello che aveva raccontato di aver visto qualcosa di strano sul pianeta Marte, cioè i famosi canali, però in realtà erano delle aberrazioni ottiche nel suo piccolo telescopio che stava usando. Da quel momento è entrato nella cultura popolare il concetto che Marte fosse abitato. Questo è andato avanti per 70 anni in modo molto, molto evidente. Nel 47 si sono venuti a creare una serie di fattori per cui nel momento giusto, nel posto giusto, il personaggio giusto ha raccontato alcune cose. Sono state riprese anche qui per motivi relativamente fortuiti in modo massiccio dalla stampa americana, sono stati espansi, è diventato un fenomeno di costume incredibile negli Stati Uniti, da lì poi si è propagato per il resto del mondo e poco dopo questo si è saldato con la storia dei marziani, nel senso che i marziani potevano essere una delle origini per queste cose strane che volavano nel cielo. Poi questa Mi scusi, ma questo fatto che le due cose siano saldate in realtà è la questione, nel senso un po' mi sembra di credere di più agli UFO io piuttosto che lei, nel senso che la cosa che volevo capire è che da un lato io tranquillamente dico è molto più probabile che esistano delle altre forme viventi chissà come sono su altri pianeti, e il problema è proprio come mai, diciamo, il paradosso di Fermi, se l'universo pullula di civiltà sviluppate, perché non abbiamo ancora ricevuto delle prove, delle comunicazioni, delle navi spaziali, una telefonata. Quindi se si riuscisse a saldare le due cose si risolverebbe il problema. È per questo che si vuole tentare di saldarli, perché se avessimo un'evidenza finalmente potremmo dire c'è qualcun altro. Sì, ma questo è relativo al fatto che l'idea, un po' come diceva lei, che ci possono essere delle forme di vita al di fuori della Terra e che rappresenta, ripeto, una probabilità, nessuno ne può avere la certezza, come nessuno può dire che ciò non è possibile. Però dicevo che l'argomento è estremamente affascinante e quindi è stato quello che poi ha vinto in termini di ipotesi nel momento in cui la gente ha incominciato a chiedersi da dove arrivavano questi dischi volanti, che poi sono diventati UFO, ed è il motivo per cui è diventata poi la spiegazione dei dischi volanti e degli UFO. Per cui automaticamente ognuno di noi, nel momento in cui pensa a un UFO, pensa sempre ad un'astronave extraterrestre, perché questa è la saldatura che si è... E lei cosa pensa, adesso per chiudere e poi salutarci, però lei cosa pensa quando pensa agli UFO? Penso che c'è un fenomeno che è rappresentato da tanta gente che dice di aver visto qualcosa, di cui la stragrande maggioranza di questi avvistamenti trova una spiegazione razionale. Una piccola minoranza non ha una spiegazione. Questo non significa che bisogna fare ricorso a ipotesi esotiche, cioè ai marziani della situazione. Ci sono in natura tantissimi fenomeni ancora che sono poco conosciuti, oppure ci sono dei fenomeni di natura artificiale che si manifestano in condizioni particolari e che non trovano spiegazione, anche perché, finisco, l'ufologia non è una scienza, è praticata praticamente sempre da dilettanti come sottoscritto, e quindi anche le risorse e le competenze, le conoscenze a disposizione non sono così elevate per poter arrivare sempre ad una spiegazione. Questo residuo poi fa sì che comunque si perpetui un po' il mito degli UFO. Certo, quindi applichiamoci con metodo scientifico, ecco, prima di... Questa dovrebbe essere la regola e soprattutto, dico io, il buon senso. Beh, certo. Grazie Maurizio Verga, buona giornata e buon 2 luglio, insomma, comunque sia. Grazie mille, buona giornata. La viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. (800) 224 0024 per indovinare il personaggio della settimana, che non è necessariamente un uomo, come abbiamo ricordato più volte, vero Carlo? Direi di dare il secondo indizio a questo punto. Ma certo, diamo subito il secondo indizio. Si è messa di mezzo l'Europa. Quindi il nostro personaggio è molto atteso, ma si è messa di mezzo l'Europa. Ma questa Europa, ce lo chiede l'Europa. Insomma, comunque, ecco, chiamate l'800-24-0024. Qualcuno ci ha scritto via email per rispondere. Non vale, purtroppo. Se vuole, l'ascoltatore che ci ha scritto può telefonare all'800-24-0024. A questo punto cambiamo argomento. Parliamo di un fondo di solidarietà per gli infermieri, creato dagli infermieri per gli infermieri colpito da Covid-19, ovviamente aperto al contributo però anche da chi proviene da altre professioni. Questo fondo si chiama Noi con gli infermieri. Sono pronti i primi 3 milioni da erogare subito ai professionisti che sono stati colpiti in qualche maniera da Covid-19. Tra questi c'è il nostro prossimo ospite, si chiama Domenico Esercizio, un infermiere strumentista che ha diritto, diciamo, a usufruire di questo fondo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, questo fondo, buongiorno. Come dicevo, no, è nato tra voi, per voi, ovviamente aperto a chiunque voglia contribuire, ma questa è un'altra questione. Qual è stata la sua vicenda? Noi prima di tutto abbiamo scoperto che non tutti gli infermieri sono dipendenti degli ospedali che ci accolgono. Voi siete dei professionisti che possono lavorare in altre condizioni diverse da quelle del, no, dipendente, sì, di un ospedale, sì, di una struttura ospedaliera. Esattamente. E lei tra questi, quindi come funziona? Niente, io faccio parte di una cooperativa di nome 9 Coop ormai da 13 anni, da quando ho iniziato a fare la libera professione. Quindi sono uno strumentista di sala operatoria, come appunto ripeto, libero professionista. Quindi lei può prestare il suo servizio da una parte o da un'altra? In una città o in un'altra? O siete, diciamo, più o meno di riferimento su... Ecco, diciamo che noi siamo legati al contratto e quindi nell'eventualità sì, possiamo agire, diciamo, altrove, però ovviamente chiedendo il permesso, diciamo, alla cooperativa per cui siamo legati. Però... Ma mi scusi l'ignoranza, ma è solamente una formula contrattuale, nel senso che lei in realtà è assunto dalla cooperativa e lavora dalla cooperativa, però lavora in un ospedale dal lunedì al venerdì tutti i giorni ed è sempre in quell'ospedale ed è come se fosse un dipendente di quell'ospedale, al di là della questione contrattuale. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che noi appaltiamo una sala operatoria con appunto diciamo come cooperativa, e ci viene attribuita una sala operatoria tutti i giorni, però noi diciamo prevalentemente diciamo operiamo in quella struttura. Quindi sì, quello che voglio dire non è che lei rimane a casa, che improvvisamente dice no, guardi, giovedì non abbiamo bisogno di lei, può rimanere a casa. No, assolutamente, fortunatamente. Perfetto. Fino ad ora non è mai successo. No, ci mancherebbe altro, esatto. No, era questo che volevamo capire. Assolutamente, lavoro da 13 anni con questa cooperativa e ci siamo praticamente allargati molto, perché comunque è sempre più richiesta questa tipologia di condizione anche dagli ospedali stessi. Che ne hanno un vantaggio nel lavorare con una cooperativa di specialisti? Sicuramente hanno un vantaggio, anche perché... Se devono fare un taglio personale, ovviamente... Perfetto. E poi il libero professionista tendenzialmente, diciamo, senza togliere nulla a nessuno, però è una persona che comunque se non lavora comunque, diciamo, non guadagna, insomma, ecco. Quindi, però il libero professionista è più esposto nei momenti di crisi. Assolutamente. Ed è quello che appunto è successo in questo... È quello che poi è successo a me, diciamo, ma relativamente, nel senso che è successo questo perché purtroppo nella giornata del 14 marzo, dopo che avevo appunto lavorato per una settimana in un reparto completamente Covid, ahimè mi sono ammalato e ho cominciato ad avere i primi sintomi, diciamo, del famoso Covid-19. Era lì metà di marzo e da lì è andata avanti per settimane. È andata avanti per 50 giorni esattamente. Dopo 50 giorni di calvario ho ripreso a lavorare, perché poi ho avuto la cosiddetta polmonite interstiziale, che tutti ormai penso conoscono come parola. E la conosciamo meglio della carbonara ormai. Sicuramente, ormai credo che sia veramente molto più in voga questa parola che forse altre parole. Quindi comunque con tutte ovviamente le conseguenze della questa polmonite, quindi febbre ma adesso sta bene. Soprattutto isolamento domiciliare. Sì, adesso sto bene. Completamente, cioè si esce completamente dal Covid, non è che restano dei... Ma diciamo che qualche disturbino ogni tanto, qualche strascico ancora dal punto di vista di qualche dolorino toracico, quello ancora forse c'è, però diciamo che in realtà devo dire che sono uscito bene, assolutamente. Senta, io le volevo chiedere una cosa, nel senso che mi sembra curioso anche, nel senso che questo fondo, che sono molto contento che venga istituito, mi sembra che abbia anche delle risorse, delle economie, però siccome sono tanti mesi che parliamo appunto degli infermieri, che facciamo manifestazioni per il nostro affetto nei confronti degli infermieri, che vogliamo riconoscere finalmente agli infermieri che fanno un lavoro, perché uno quando parla di ospedali pensa sempre ai medici, ci si dimentica degli infermieri. Abbiamo visto durante questo periodo di Covid quanto invece siano importanti gli infermieri. Forse è una domanda stupida, però quello che mi chiedo è: anche questo giro non è un po' strano che anche il fondo voi ve lo siate autofinanziato, cioè noi con gli infermieri, ma poverini, siete di nuovo infermieri che siete con gli infermieri, quindi dobbiamo un po' allargare questa platea di gente che ci mette i soldi, perché se siete di nuovo sempre solo fra di voi, insomma, va benissimo, sì. Però è più difficile aiutare tutti gli infermieri, o sbaglio? No, no, assolutamente, anche perché gli infermieri, diciamo, ne siamo tanti effettivamente. Sarebbe buona cosa che magari a questo fondo si potesse, diciamo così, partecipare, si potesse qualcun altro, potesse partecipare qualcun certo. altro. No, no, però volendo si fa, ecco. Il problema è che certo. l'iniziativa è partita da voi, ecco. Volendo. Sì. Ma l'iniziativa è partita da noi proprio perché purtroppo, ahimè, come ben penso che abbiano parlato tutti i telegiornali, il personale sanitario forse è stato quello più colpito prevalentemente, soprattutto all'inizio, dove ancora non si capiva bene questo Covid-19 come venisse, diciamo, vero, trasmesso. Sì. Ricordiamo che ci sono stati anche 40 morti fra gli infermieri della categoria più colpita. Assolutamente, tra medici e infermieri siamo stati davvero tanti, a parte, diciamo, le morti, però posso garantire che tra colleghi, cioè, ci si parla e siamo stati tanti a casa. Poi, per carità, qualcuno con i sintomi un po' più, diciamo, non so come posso dire, diciamo, più lievi, certo. Più lievi, alcuni con sintomi un pochino più importanti, però le posso garantire che ce ne sono stati tanti. Ma questo fondo che vi darà un aiuto sì. economico, adesso non so certo. bene se quantificarlo, è un sì. ingente, non so, insomma, a voi in che cosa vi aiuta? Nel senso, è un'integrazione per... A me ha aiutato nel senso che io ovviamente dal 14 marzo al 4 maggio che ho ripreso a lavorare, io non ho... perché io ovviamente come libero professionista fatturo, ho partita IVA e non ho fatturato assolutamente nulla perché non potendo lavorare, quindi il costo era pari a zero. Quindi comunque questa incertezza economica ovviamente, oltre a che non star bene, ti mette anche un po' di ansia, perché comunque, come penso una buona parte degli italiani e non, ci sono delle spese da affrontare mensilmente, quindi... Questo mi aveva messo parecchie incertezze. Perché la cooperativa non prevede nulla, nel momento in cui lei non può staccare fattura, la cooperativa non le eroga. Allora, diciamo che la cooperativa non prevede nulla, perché non siamo pagati, diciamo, è una tariffa oraria, quindi comunque in base al tipo a quanto lavori, tanto guadagni, certo. insomma, capito. Questo era il motivo per cui giustamente prima Laura sottolineava la forma contrattuale, perché con altre certo. forme contrattuali, quando uno è a casa in malattia, solitamente si è pagato. Assolutamente, nel caso appunto della dipendenza, questo assolutamente, perché se uno è a casa in malattia comunque viene corrisposto, comunque a prescindere, nel caso appunto del forse per quello che gli ospedali usano le cooperative. Bravissimo, bravissimo. Probabilmente è anche questo, diciamo, il fatto che si sta ci si spoglia di più spese. Verso questa strada, perché comunque il libero professionista, non me ne vogliono i dipendenti, però è difficile che stia a casa, insomma. Quindi garantisce probabilmente un lavoro abbastanza costante. Anche questo certo. probabilmente è uno dei motivi per cui si sta andando un po' verso questa direzione. Ma voi comunque avete almeno diritto alle altre integrazioni previste per altri professionisti, i famosi 600 euro? No, sì. No. Sì. No, noi abbiamo una nostra, diciamo, previdenza che comunque è una che si chiama Impapi, dove noi versiamo annualmente, diciamo, una quota in base ovviamente al nostro volume di affari, che poi è un po' la nostra previdenza, invece, cioè non dipendiamo dall'INPS, come per dire, può dipendere un dipendente, ma da questa Impapi, cassa insomma. Privata, mm-hmm, certo. Mm-hmm. Questa cassa privata. Senta, ma un'ultima domanda che le volevo fare, sì. Su quello di cui parlavamo prima, cioè questo grande affetto di tutta la nazione, poi mi chiedevo se anche nella pratica stavate riscontrando questo affetto, nella pratica o nella frequentazione di tutti i giorni, o se è molto, diciamo, esposta televisivamente, ma poi invece in realtà negli ospedali si continua a picchiare gli infermieri, perché ricordiamo che prima del Covid parlavamo spesso di infermieri che invece, infermieri o medici che venivano picchiati in certe strutture perché, insomma, per problemi sì, d'altro sì, tipo. Sì, Certo, chiaro. Adesso siete degli eroi, fino a 20 minuti fa invece eravate a picchiare. Bravissimo, infatti diciamo, allora, diciamo che la parola eroe effettivamente può fa un po' scalpore, nel senso che piace, può piacere assolutamente, però io condivido un po' il suo pensiero, nel senso che cioè, se, probabilmente eroi lo dovremmo essere sempre, non solo in questa circostanza. Poi questa circostanza è stata particolare, certo. E quindi diciamo la mole di lavoro è stata veramente eccessiva, fino appunto allo sfinimento, come abbiamo visto immagini anche in TV e quant'altro di colleghi che hanno fatto turni su turni. Questo posso dire che è effettivamente vero, perché da parte di tutti c'è stata veramente una grandissima disponibilità. A me è dispiaciuto molto perché poi mi sono ammalato, quindi non ho potuto continuare in questo senso, però posso garantire che effettivamente la disponibilità di tutti i miei colleghi è stata davvero, grande, insomma. Poi certo, ripeto, adesso si è ritornati un po' alla normalità, quindi... E quindi adesso ci si azzufferà di nuovo come prima? Secondo me ritorneremo a essere gli infermieri, probabilmente, non lo so. Speriamo che qualcosa sia cambiato. Sicuramente questa cosa ha lasciato parecchio un segno un po' in tutti e soprattutto nell'utenza, quindi spero che appunto questo possa veramente aiutare... quello che probabilmente prima, come diceva lei, esisteva, ma che magari si possa adesso tramutare in altro, insomma. Grazie molte. Grazie. Noi comunque la vogliamo ringraziare tantissimo per il suo impegno e per l'impegno di tutta la categoria. Ecco, io volevo ringraziare tanto comunque la FNOPI, perché effettivamente è stata un'associazione per cui io devo veramente ringraziare, perché in questo senso mi ha veramente aiutato molto per questo fondo, e mi ha dato la possibilità di recuperare un po' quello che praticamente avevo perso stando a casa ammalato, insomma. Oltretutto, infatti, non solo stando a casa, ma anche malato. Noi con gli infermieri, questa è la raccolta fondi, FNOPI, sì. Lo ricordo agli ascoltatori, grazie Domenico Esercizio per essere stato con noi, buon proseguimento, in bocca al lupo allora per grazie, il futuro. Grazie, buona giornata anche a voi. Buona giornata. Buongiorno, salve. E diamo il buongiorno anche a Francesca, che ha chiamato da provincia di Roma per indovinare il personaggio della settimana. Prima del meteo sentiamo anche Francesca. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, quale è il personaggio? Non è un personaggio, ho pensato fosse il Recovery Fund. Il Recovery Fund. Allora, perché ci si è messa di mezzo l'Europa, su questo non c'è dubbio, sul fatto che è poi molto atteso. Allora, beh, vediamo cosa ci dice la regia. Non è lui, però sicuramente ha portato l'attenzione, il faro sull'Europa, lei con questa telefonata. Francesca, grazie, buona domenica. Lei, a voi. Buona domenica. Piccola pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. Vedo la chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. Sono parole che vengono da un'intervista che rilasciò Papa Francesco nel 2013 al direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro. Sono parole che hanno così segnato anche il percorso di Don Massimo Biancalani, che adesso è in collegamento con noi. Buongiorno Don Massimo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, disobbedisco e accolgo è il titolo di questo libro, in cui lei racconta un po' tutta la sua storia, è la storia che l'ha portata a costruire a Vico Faro una chiesa ospedale da campo per i migranti. Questo volume è appena uscito e noi ne vogliamo parlare un po' con lei, perché poi racconta un po' tutta la sua storia, tutto il prima, come è arrivato poi dopo alla sua vocazione, i primi passi, quando pensava a una vita vicina diciamo, più tranquilla all'inizio in parrocchia, e poi come invece tutto è cambiato, no? Tutto è cambiato, sì, molto velocemente. Sì, è stato un bel percorso quello che ha fatto lei. Sì, diciamo, si arriva a fare esperienze come la nostra, certamente non dal niente, ma occorre a noi occorre una preparazione ben precisa, cioè una preparazione che riguarda così un po' lo spirito anche, no? Un po' l'approccio alla vita pastorale di una comunità che intende poi soprattutto rispondere ad un appello che è nel Vangelo, un appello che poi nel Magistero recente poi accennato voi di Papa Francesco, all'accoglienza, e risponde poi soprattutto nel nostro caso a un'emergenza, no, che sapete sui territori, insistono sui territori, si parla di 500.000, 600.000 persone, spesso giovanissime, migranti, che così vanno da un nord a sud in cerca di lavori stagionali. E quindi soprattutto sul nostro territorio dell'area metropolitana fiorentina, tanti di questi ragazzi si fermano per cercare un lavoro nell'industria del pronto moda. E noi stiamo dando una... purtroppo sono, senta, ragazzi, ma... che... Mi dica. No, le volevo chiedere una cosa, nel senso che giustamente lei sottolineava questo appello anche appunto del Papa ad aprire le porte ai nostri fratelli migranti, però non tutti sono d'accordo con questa affermazione anche all'interno della Chiesa, no? Infatti è triste dirlo, ma si parla anche di parrocchiani che si sono allontanati dalla sua Chiesa. Sì, capire soprattutto... dire un po' sporcarsi le mani, tra virgolette, ecco, in un'impresa di questo genere occorre, ecco, davvero una preparazione, una convinzione profonda, e spesso anche un po' di coraggio. Spesso il nostro popolo, il coraggio anche certamente, e spesso il nostro popolo, così, dei credenti, dei parrocchiani, non è pronto, non riesce. Considerate sempre che la nostra gente comunque ogni giorno subisce come dire, questo bombardamento mediatico che, sapete, in questi anni è stato rispetto ai migranti feroce, quindi anche per loro, per le persone semplici, magari arrivano, vengono in chiesa, capire, ecco, una scelta radicale. Ecco, perché la sua è una scelta radicale, cioè l'ospedale da campo, che sta nel titolo del volume, è un reale ospedale da campo all'interno della Chiesa, è stato, poi dopo è diventato una cosa, però è partito in maniera, immagino per i parrocchiani, diciamo, tradizionali, molto d'impatto. Campo, come avete detto voi, è un'immagine che è molto cara alla Papa Francesco, no? Riporta più documenti, soprattutto poi avete accennato all'intervista con il direttore di Città Cattolica. Di Città Cattolica, ma è presente l'immagine nell'enciclica di Papa Francesco, e quindi l'immagine che si riferisce a questa apertura radicale della comunità. Noi abbiamo aperto le porte, sostanzialmente abbiamo aperto le porte a questa umanità che cominciava già nel 2015-2016 a chiederci aiuto, e quindi abbiamo soprattutto accolto, perché ospedale da campo, abbiamo accolto in accordo con la prefettura, no? Secondo il modello dei CASH e degli SPRAR, ma abbiamo accolto tutte queste persone che già all'epoca finivano in mezzo alla strada. Sapete, perché il sistema d'accoglienza in Italia è un sistema d'accoglienza che ha molte falle, ha molte lacune, perché i ragazzi, dopo un periodo di 2 o 3 anni di vita in cooperativa, appena hanno mano un documento umanitario, vengono espulse e rimangono sulla strada, spesso non sanno dove andare. Ecco, noi abbiamo dato una risposta, ospedale da campo in questo senso, abbiamo dato una risposta a tanti ragazzini, perché sapete, no, le medicazioni cristiane sono le medicazioni, dico spesso, di bambini proprio. Abbiamo dato una risposta a questa umanità che era smarrita, abbandonata, no? I ragazzi non sapevano dove dormire, dove appoggiarsi, così, era proprio in mezzo alla strada. No, è molto senso. Importante, quindi, perché, soprattutto perché... La nostra sfida... Prego. La nostra sfida soprattutto ci ha un po' caratterizzato e vuole ancora continuare in questo senso, è portare i ragazzi nel bel mezzo di un, appunto, di una vita pastorale, di una comunità. Non siamo un centro d'accoglienza magari collocato ai margini della città come queste spesso cooperative fanno, no? Per non far vedere i migranti si scelgono posti assurdi, no? Lontani dalle noi, siamo proprio nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di Pistoia. E questo è stato anche pensato e voluto, perché penso che lavorando, impegnandosi, si possa fare un lavoro di incontro, perché la prima integrazione, certo, avviene proprio nell'incontro tra le persone, no? Racconto tante storie, ricordo che quando decisi, dopo aver chiaramente discusso con il consiglio pastorale, con tanta gente, amici, di accogliere, ricordo, no, le donne di Caritas, le signore preparavano il pacco per dare alimenti alle famiglie, tra l'altro ce ne continuiamo a fare perché non abbiamo dimenticato gli italiani, noi stiamo ospitando anche italiani senza pista di mora, mi dissero se arriva gli africani non andiamo via, ma non perché dettate da una cattiveria, perché magari spaventate, chissà, no, che pensavano potesse arrivare. E quando invece, ecco, poi sono arrivati i ragazzi, queste donne non sono andate via, ma col tempo sono diventate la mamma, tra virgolette, la nonna, e sono addirittura una signora che era molto spaventata, dopo pochi mesi addirittura ha fatto una chat con i ragazzi, i migranti, e quindi le conosce tutti. È giustissimo, guarda, è incontrato esattamente con queste storie. Esattamente con queste storie che si capisce che l'integrazione è possibile, è più che possibile, bisogna metterla in pratica, perché è più facile parlare appunto da spaventati quando poi vedi la persona che è di fronte a te, capisci che è un bambino che ha bisogno d'aiuto, forse crolla anche tutta questa costruzione di razzismo intorno quasi sempre a fini politici. Certo, se non diamo possibilità di incontro tra questa umanità, che non dimentichiamo, con un'umanità che viene da un contesto, anche se una certa secolarizzazione, mentalità occidentale ormai è arrivata anche, sappiamo, in Africa, no? Pensiamo alla Nigeria, un paese davvero devastato da una certa mentalità, una certa economia, insomma, un paese dalle mille mani, no? Però tanti contesti, penso alla Guinea, è ancora un paese molto arretrato, però arriva internet, arriva anche lì. Sono situazioni molto, molto diverse. Allora io devo salutarla, Don Massimo, ma voglio ricordare il titolo del libro: Disobbedisco e accolgo, Avico Faro, una chiesa ospedale da campo per i migranti, edizioni San Paolo, e ovviamente appena uscito. Allora noi abbiamo tra un attimo la viabilità. Voglio, Carlo, dare il terzo indizio per indovinare il personaggio della settimana. Direi un indizio decisivo: c'era del marcio, ma c'è anche dell'amore. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Allora, il premio L'altro pianeta lo diamo a una iniziativa questa settimana, un'iniziativa che è quella del team dei Green Heroes, cioè super campioni dello sport che si mettono al servizio dell'ambiente. E per parlare un po' della loro attività abbiamo con noi Stefano Ghisolfi, arrampicatore, che è appunto uno dei Green Heroes. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Stefano, allora come va? pronto per questa super missione da supereroe verde? Sì, sono pronto. No. Allora, in che cosa consiste un po'? In che cosa consiste questa vostra azione? Esatto, non è proprio una missione, diciamo, fine a se stessa, ma è una cosa un po' a lungo termine. Siamo 5 atleti di sport diversi. Io faccio arrampicata, ma poi c'è anche triathlon, l'apnea, l'automobilismo elettrico e i tuffi. E in pratica consiste nel... Quindi tutti che avete un po' più a che fare con la natura, diciamo, per la vostra, no, attività sportiva, un po' più vicini. A parte se parliamo dei veicoli elettrici, che lì siamo proprio sul limite, però appunto chi in montagna, chi in acqua, no? Esatto, sì, tutti abbiamo un rapporto con la natura, ma anche Luca Filippi, che fa le gare automobilistiche con veicoli elettrici, da un certo punto di vista, per quello che fa, è attento alla natura proprio per i veicoli elettrici. Insieme siamo diciamo, stati scelti, selezionati da Ace Team, e diciamo, facciamo delle iniziative proprio a salvaguardia dell'ambiente. Tipo, che iniziativa tu hai fatto in tempi recenti o progetti di fare per portare l'attenzione su questi temi? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è, grazie a una collaborazione con Zero CO2, abbiamo piantato a testa 10 alberi con questa associazione che diciamo lo fa per noi. Dal punto di vista sia simbolico ma sia materiale, perché loro lo fanno veramente in Guatemala per compensare le emissioni di CO2 che ogni giorno, diciamo, spendiamo. E quindi abbiamo piantato 10 alberi a testa, creando questa foresta simbolica chiamata Green Hero Forest. Questa è la prima iniziativa che abbiamo fatto, che porta il vostro nome, sia pur indirettamente, no, però lo porta. Volevo chiederti invece, nell'esperienza tua quotidiana appunto in montagna, durante gli allenamenti, vedi, diciamo, il cambiamento climatico nei luoghi in cui tu frequenti? Ne vedi gli effetti? Sì, allora, una cosa che si nota tanto, soprattutto nel lungo periodo, perché magari giorno per giorno non te ne accorgi, ma poi se pensi magari a 10 anni fa, te ne accorgi che quando si va a scalare si scelgono magari certi posti in base al clima, in base alla temperatura, e questi posti man mano stanno cambiando stagione. Per esempio, un posto dove di solito si andava d'estate, adesso comincia a essere troppo caldo d'estate per poterci andare, quindi si cambiano le stagioni. Me ne sono accorto negli anni, e alla fine per la scalata non cambia la vita, ma per l'ambiente in generale poi potrebbe essere devastante. Carlo, tu ci senti? Riesci a seguirci? Perché ho qualche dubbio. Io sì. Ah, ecco, no, perché non ti sentivo. Allora ho anche fatto delle domande, ma evidentemente... Ma dai, ripetila, dai, che ci abbiamo ancora un minutino. Ripetila la domanda. Evviva, volevo fare i complimenti, volevo dire che 10 alberi mi sembrano un po' pochi, di aumentarli. Sì, era l'inizio, noi continueremo a collaborare con questa iniziativa, e man mano, mentre continueremo a emettere emissioni di CO2 per i nostri viaggi, per le nostre gare, continueremo a compensare queste emissioni, non era 10 alberi e basta. No, certo. Ci mancherebbe. Sarebbe questo stato un anno olimpico per te, anche per gli altri, ovviamente, per tanti altri. È stato tutto rimandato invece. Come stai vivendo questo momento, diciamo? Proprio a causa del Covid è stato rimandato tutto al prossimo anno, e anche le gare di qualificazioni. Purtroppo, in realtà, per me, per una serie di motivi particolari, sono stato escluso dalla possibilità di qualificarmi alle Olimpiadi, perché hanno rimandato una gara di qualificazione dopo un'altra scelta che dovevano fare, e per quella scelta, siccome ci sono al massimo 2 posti per gli italiani nell'arrampicata, si sono qualificati un altro ragazzo e hanno, diciamo, riempito i posti disponibili. E per me non è più possibile qualificarmi alle Olimpiadi del 2021. No, ma questo ci spiace moltissimo. Eh sì, all'inizio anche a me, poi ho pensato che ci sono altre mille possibilità, mille gare, mille progetti che voglio fare, quindi non mollo e cerco di trovare un altro obiettivo. Ah, ok, ma non hai ancora definito Perfetto. L'altro obiettivo? No. Ci sto pensando, ci sono parecchie, anche perché le competizioni adesso sono un po' in dubbio, non sono sicure, ma ho parecchi progetti sulla roccia che voglio provare, tra cui anche qualche via che sono tra le più difficili al mondo. Ok, allora Stefano... Ma lo sport del climbing è stato colpito, diciamo, dal Covid? Fra i vari sport il coefficiente di rischio è alto o basso? Allora, di per sé quando uno arrampica è da solo, quindi il rischio quando uno Ottimo. Scala non è alto. Il problema è che tutti toccano le stesse superfici. Gli stessi chiodi. Quindi, esatto, ma anche le stesse prese, proprio la stessa parete, e quindi da quel punto di vista bisogna stare un po' attenti, però per esempio quando si va sulla roccia o in ambiente naturale ci sono talmente tante possibilità che praticamente ognuno potrebbe fare qualcosa di diverso senza stare vicino. Stefano, cioè, noi vi dobbiamo salutare. I guanti, perché sennò non è free climbing. Esatto, con i guanti è impossibile. Allora Stefano, in bocca al lupo per il futuro. Noi ci dobbiamo salutare, Carlo, perché siamo giunti al termine di questa puntata. Il personaggio certo. della settimana, il matrimonio della premier danese, che è stato rinviato per la terza volta a causa del vertice europeo, ma tutti i dettagli ve li mettiamo poi su Facebook. Voglio fare tutti i ringraziamenti del caso, che sono ovviamente a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Peter Bessi.